hasta el último morte de sanidad. Nace lo capitana, nace lo cingariel, nace la mamma stella, nato por los amador, la stella che rimane per chi vuole costruire il carro troppo con bandiere, carnevale mandarello, con le merito banchiere autenticato da Bruxelles, col vecchio cavaliere che rispolverà se è in campo il top e le sto quante, non manca più nessuno, solo non si vedono alle chine funzionali. L'Italia è paese del chi fa da sé fa per tre, e non si dica che con rima presso niente, stanno facendo tutto questo per te, perché l'Italia è paese del chi fa da sé fa per tre, qui la politica è passione e cambiamento, e mole levatevi da mezzo che comanda. Siamo molti premi lo bonus. Mangiamo con Covid, no mangiamo con mess. Mangiamo show recovery e fermiamo la pressa. Mangiamo ca miseria, mangiamo ca fam. E a roppi il tuo burdello ce ne amme e non va mamma.